Finiamo questo video, quello di prima, continua con questo secondo, che riguarda sempre i simboli e come i simboli facilitano la nostra vita. I simboli quando diventano matematica dell'anima, matematica dello spirito. Allora, questo è il simbolo dell'anima che nella tradizione più genuina, della mistica occidentale, è formata di due componenti, due occhi. Due occhi dell'anima sono intelletto e cuore. Quindi da una parte l'intelletto, logos, la capacità di ragionare, e dall'altra il sogno, l'immaginazione, la poesia, ma anche l'intuizione, ma anche il desiderio animico, l'auspicio, l'augurio, il cuore aperto, che è quel cuore che ci fa respirare e essere leggeri nella vita. Infatti l'anima ci consente di osservare in profondità le cose, comprenderle in modo chiaro e distinto, secondo questo modo di parlarsi dentro, perché l'anima parla in modo autorevole, semplice, trasparente al nostro interno, la nostra voce interiore, quando ci parla così, ci dice cose vere. Noi soffriamo quando ascoltiamo voci interiori che ci parlano in questo modo. Queste sono le voci dell'ego di cui tante persone non sanno liberarsi, perché a queste voci attribuiscono fiducia. Attribuiscono fiducia a ciò che meno merita la fiducia, cioè attribuiscono fiducia a ciò che è falso e corrotto. Mentre non attribuiscono fiducia a ciò che è autentico e affidabile. Quindi scambiano il vero per falso e il falso per vero. Bene, simbolo dell'anima, simbolo dell'intelletto, simbolo del cuore, io ho già detto cos'è il cuore, è non solo apertura del cuore, vuol dire tutte le qualità dell'affetto, tutte le qualità del calore umano, ma anche l'immaginario, il sogno, l'intuizione, ammettiamo, aggiungiamo qua, l'intuizione. Che nasce in realtà poi da un collegamento tra il cuore e l'intelletto, perché la vera intuizione è frutto della collaborazione animica, come vedete questo è il simbolo della connessione, non c'è separazione, c'è connessione tra l'intelletto e il cuore e qui nasce l'intuizione grande, il nous poietikos di cui parla Aristotele, di cui parla Filone Alessandrino che assunse il termine nous poietikos come sinonimo di spirito. Ecco. Bene, quando noi abbiamo, oltre alla chiara comprensione, le idee chiare e distinte sulle cose, anche il sogno, l'immaginario, l'intuizione, la poesia, ecco, allora dentro di noi non solo capiamo cosa è importante fare, perché capiamo, abbiamo una visione chiara, che ci viene data da qua, chiara visione. Ma abbiamo, guardate qui, anche la forza, la motivazione di compiere la retta azione, il retto agire. Ecco, quindi abbiamo energia vitale a nostra disposizione. Questo si chiama anche Eros, cioè noi sappiamo erotizzare i nostri sogni radicati nella realtà del possibile, ciò che è possibile per noi. Bene, Eros è un termine che ha tanti significati, ma insomma, se andiamo all'etimo di Eros, da dove origina Eros, per i greci Eros era figlio di Poros e Penia. Poros è il simbolo di colui che sa arrangiarsi, trovare i mezzi per risolvere le difficoltà. Penia vuol dire povertà. Bene, allora qui indica che povertà o carenza. Eros quindi significa che c'è una carenza, manca qualcosa, ma grazie a questa combinazione c'è anche poros, cioè la capacità di trovare i mezzi per superare la carenza. Ecco perché l'eros è così decisivo. Se non abbiamo eros, o non ci accorgiamo della carenza, o non abbiamo i mezzi per superarla, quindi siamo passivi. L'eros è l'opposto della passività. Io quando erotizzo i miei rapporti, io sono attivo, sono proattivo. io sviluppo al massimo le mie potenzialità. Io so amare la vita se erotizzo la vita, se erotizzo le attività che compio. E non mi stanco facilmente, è molto difficile stancarsi se si è compagni in buona compagnia dell'Eros, perché Poros trova sempre i mezzi, è molto intelligente, trova le vie di uscita. Dall'altra, qui abbiamo Logos, abbiamo parlato della matematica dello spirito, che dal nostro punto di vista si avvale di che cosa? Dei simboli, che, così come vi abbiamo fatto vedere, ecco. Ora, se è la prima volta che li osservate, magari rimanete disorientati, ma una volta che li frequentate, li familiarizzate, vi familiarizzate e li utilizzate, i simboli diventano dei condensatori, dei facilitatori enormi al ragionamento, quindi al logos. E proprio perché sono così potenti, sono a disposizione, sono facilitatori di qualunque pensiero, anche non molto allenato. Sto dicendo che questi simboli hanno un forte quoziente democratico. Sono l'apertura al pensiero popolare democratico, che non sia un pensiero di tipo basso, ma che sia un pensiero che pian pianino va verso l'alto, cioè acquista visione sempre più grande senza dipendere dai maestri. Perché i maestri, i veri maestri, hanno un unico scopo nella vita: diventare inutili, non servono più, perché hanno risvegliato il maestro interiore dentro gli altri. Affinché questi simboli funzionino così, che sono ideogrammi, come vedete, no? In qualche modo bisogna averne fatto l'esperienza. Quindi bisogna che, quando noi pratichiamo un simbolo, ne conosciamo le radici, da dove viene. E lo sperimentiamo nel corpo. Per esempio, la separatività, noi dobbiamo fare l'esperienza di cosa vuol dire essere separati, scissi da un'altra persona, quando manca l'empatia, quando l'altra persona ci giudica, quando l'altra persona ci rifiuta. Ci sentiamo separati, la separatività produce ostilità. Per capire l'ostilità non è difficile, basta sentire una lingua ostile contro di noi, parole ostili. Ecco, che cos'è il giudizio? Cos'è la soggezione al potere? La maggioranza delle persone oggi lo patisce sui luoghi di lavoro. Bene, quando allora vediamo questo simbolo qua, non sono più tre lineette, tre segmenti, ma sono un sentire profondo nella nostra carne. Allora, quando i simboli sono così, diventano come le parole sacre di una volta, acquistano un potere immediato su di noi, e quindi noi diventiamo molto più svegli e più pronti, intelligenti. Noi abbiamo oggi bisogno di fare un grande cammino nella comprensione delle cose, perché siamo, dal punto di vista dei maestri, grandi maestri, siamo in un periodo di enorme ignoranza, cioè siamo pieni di informazioni, ma siamo vuoti di sapienza, cioè quelle vere poche conoscenze, quelle che ci danno l'orientamento rispetto al vivere, che ci danno il senso di sicurezza e la piena libertà, cioè quelle parole, appunto, che sono parabole, ponti, e che ci consentono di vivere in modo pienamente autentico, in altre parole, a diventare chi siamo, virgola, cioè divini. Quindi, mentre qui vige la logica del homo hominis lupus, homini lupus, qui siamo nella logica homo, homini, Deus.